Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, sono ovviamente le condizioni di Cassano a tener banco in questo lunedì di Ponte, che segue un fine settimana calcistico non decisivo, questo no, non può esserlo a fine ottobre, ma molto molto significativo, sia per quello che è accaduto, sia per le proiezioni in prospettiva. Avrete seguito, immagino, anzi spero, i puntuali aggiornamenti dei nostri giornali radio sulle condizioni di Antonio Cassano. Un riassunto lo ha fatto poco fa l'allenatore del Milan, Allegri. Ma stanno facendo ancora degli accertamenti e quindi dopo sapremo di più, però Antonio sta decisamente meglio e speriamo di averlo il più presto possibile. Ho mandato ieri un paio di messaggi, mi ha risposto serenamente e tranquillamente, quindi no, la squadra è abbastanza serena, dispiaciuta per l'accaduto Antonio, però insomma le notizie sembrano confortanti e quindi questo è un bel, è una bella cosa. Dispiace anche perché è un ragazzo di 29 anni e quindi è normale che ci sia apprensione, però i medici stanno rassicurando il tutto e quindi questo è una cosa che ci fa stare più sereni. Sereni, sì, pare proprio che da un punto di vista clinico l'allarme sia rientrato, poi certo si tratterà di vedere quali possono essere i tempi di ripresa di attività agonistiche. Su questo tuttora c'è un enorme punto interrogativo, perché potrebbe trattarsi di veramente molto poco, oppure potrebbe trattarsi invece di una cosa più seria su cui usare il massimo delle cautele possibili. Abbiamo un altro frammento dell'amministratore delegato del Milan, sentiamo sull'argomento Galliani. Io credo che qualunque paziente che si chiami Cassano, qualunque altro nome, ha diritto alla riservatezza, ha diritto alla privacy, quindi non c'è nulla da dire. Ci sono i medici che ci stanno provvedendo, quindi speriamo che vada tutto bene. Sì, l'ho sentito anche 5 minuti fa, quindi sta bene, di buon umore, quindi io non faccio il medico, quindi non posso fare diagnosi. Comunque l'ho sentito in forma. Sì, anche questa è una dichiarazione molto recente, parliamo di qualche decina di minuti fa. Non ci sono sviluppi ulteriori, se ce ne fossero ovviamente ve li forniremo con grande tempestività, ma ripeto, il timore a questo punto appare circoscritto ai tempi di ripresa dell'attività agonistica, non tanto, per fortuna, ai tempi di ripresa invece da un punto di vista personale, da un punto di vista di salute generale. E allora possiamo, sempre restando appunto in attesa di eventuali sviluppi e attendendo i vostri interventi in diretta come ogni lunedì all'800 24 00 24, e questo vale, la diretta vale sia per i giorni per lunedì normali che per quelli di Ponte, come questo, io comincerei con qualche curiosità significativa. Intanto siamo arrivati a 5 allenatori saltati in stagione, perché ieri è toccato a Giampaolo. Giampaolo era un allenatore emergente e qualche stagione fa, anzi, di lui si parlava come di un esponente notevole della nouvelle vague della panchina, e invece siamo al quarto esonero in carriera. E pensate che dal 2006 a oggi soltanto una volta, nel 2008-09 alla guida del Siena, è riuscito a completare la stagione in panchina. D'altra parte, Vedi Colomba per Giampaolo e vedi Nero, perché già era successo nel 2009-2010 che un confronto diretto tra i due costasse l'esonero a Giampaolo. Dopo Inter-Juventus, le curiosità non sono poche sull'uno e sull'altro fronte. Intanto la Juve è rimasta l'unica squadra imbattuta in Serie A, e questo qualcosa comincia a voler dire. Era la prima volta dal 2006, non è la prima volta dal 2006 in avanti che la Juventus batte l'Inter, questo assolutamente no, però è la prima volta che la batte affrontandola davanti in classifica, anzi nettamente davanti. L'Inter non è mai andata così male dopo 9 giornate, era 46-47, quindi stiamo parlando calcisticamente e non solo di preistoria. E a proposito di Inter, c'è anche ma questo comincia a valere già anche per la Roma, ma anche per il Napoli, temo. Solo una volta negli ultimi anni, da quando la vittoria vale 3 punti, cioè dal 94-95, chi ha vinto il titolo ha perso più di 4 partite. E accade proprio in quel 94-95 che la Juve riuscì a vincere lo scudetto nonostante 7 sconfitte, ma è un'eccezione. Da allora chi ne perde più di 4 è fuori corsa, l'Inter ne ha già perse 5 e quegli 11 punti di distacco della Juventus, 9 dal Milan, 10 dalla Lazio Udinese, eccetera, mi pare che la dicano lunga. La Juventus tutto sommato sta impressionando, ma di punti in più rispetto allo scorso anno ne ha poi soltanto 4 al momento, mentre invece l'Inter ne ha già 10 in meno rispetto alla stagione scorsa. E chiuderei questo primo capitolo statistico con Marchisio, che non solo sta giocando molto ma molto bene, insomma, qualcuno lo chiama il nuovo Tardelli della Juventus, qualche analogia c'è effettivamente, pur nelle differenze inevitabili tra i due. Marchisio ha già eguagliato dopo queste poche giornate il record stagionale di marcature con 4 gol e lo aveva stabilito nello scorso campionato. Non dimenticherei evidentemente le realtà non dico emergenti, perché Udinese e Lazio già l'anno scorso sono state protagoniste. La Lazio a quest'epoca, l'altro anno, era in testa alla classifica, quindi non c'è nulla di nuovo. L'Udinese invece era partita in maniera disastrosa e poi rimontò nel finale. Ma insomma, Udinese e Palermo i quartieri alti li hanno già frequentati nello scorso campionato. In questa stagione sta succedendo a maggior ragione. Allora sentirei innanzitutto Rocchi, che con il gol di chiusura del 3-0 di ieri sera a Cagliari ha toccato quota 100 gol con la maglia della Lazio. Sono entrato comunque con la voglia di far bene, di mettermi a disposizione della squadra, sapendo comunque che mancava poco, però quando si è in campo si ha sempre comunque l'occasione, l'opportunità di poter fare qualcosa di utile, e in questo caso è venuto fuori il gol, che poi magari arriva sempre quando meno te l'aspetti. Forse adesso mi rendo veramente conto, ecco, comunque di aver fatto comunque 100 gol con la maglia della Lazio, e per me è una cosa che mi gratifica molto, che sono onorato, che ho scritto una parte, ecco, di storia per questa maglia, e mi rende proprio felice. Franco Piantanida mi ha confezionato una classifica dei marcatori centenari in maglia laziale. Allora, Piola, Silvio Piola a quota 150, Signori 127, Chinaglia 122, Giordano 108, stiamo parlando di grandissimi giocatori, e adesso in questo club al quinto posto si iscrive dunque Cristian Rocchi con 100 gol. Qualche messaggio prima del traffico. Quindi il Novara fa ancora tempo a vincere lo scudetto, scrive Giorgio Ranovara, no? per via del numero di sconfitte non ancora totali. Novara avrà le sue brave gatte da pelare a salvarsi, come altri d'altra parte. Scommettiamo che la prossima panchina a saltare è quella del Palermo, scrive Pasquale da Angri. Beh, insomma, è una scommessa che vale poco, nel senso che chiunque ci sia sulla panchina del Palermo sa che sarà a rischio. Invece, secondo Damiano a Roma, il prossimo allenatore a saltare sarà Luis Enrique, perché così la Roma non può andare avanti. Mentre Luca da Modena scrive: nonostante l'istintiva simpatia che provo per il Napoli, vedere le immagini di Mazzarri che non stringe la mano a Montella fanno passare la voglia di guardare il calcio. E fin qui siamo perfettamente d'accordo, anche se in realtà fanno passare la voglia di vedere il dopo calcio, perché è una cosa già finita. La partita era stata bella, magnifica, leale, vibrante, corretta, con questa gravissima scorrettezza finale di cui poi Mazzarri, per la verità, si è come minimo, meno male, si è scusato. Una notizia triste appena battuta un istante fa dalle agenzie: lutto nel mondo del giornalismo sportivo, è morto a Roma all'età di 76 anni Lino Cascioli, per anni inviato del Messaggero al seguito della squadra giallorossa e della nazionale. Fu memorabile, ricorda l'ANSA, una sua lite con Enzo Bearzot durante i mondiali di Spagna 82. La società Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Cascioli, che aveva anche dedicato alla Roma alcuni libri ricchi di bellissime foto. Per la verità, di Lino Cascioli io ricordo una memorabile lite con Bearzot, non durante i mondiali di Spagna 82 come l'ANSA scrive, a parte che ce saranno state anche allora, ma durante l'Europeo dell'80, e in particolare nello spogliatoio di Biella, dove l'Italia era in ritiro. Non mi sembra questo il momento più opportuno per per rinfrescarlo, per ricordarla, credo di averla già narrata in un'altra occasione. Comunque le condoglianze più sentite alla famiglia di Lino Cascioli e le condoglianze più sentite alla famiglia di Giulio Campanati, che si è spento ieri a Milano. Campanati è stato uno dei principi degli arbitri italiani degli anni 50 e 60 sui campi, e poi è stato designatore, è stato presidente dell'AIA per quasi 20 anni. Io credo che se esaminiamo l'intera sua carriera, forse è stato il numero uno degli arbitri italiani, considerando sia l'attività agonistica, cioè l'attività arbitrale col fischietto in campo, sia quella poi dirigenziale che ha proseguito fino a tarda età. Aveva 88 anni Giulio Campanati, che era stato, in un certo senso, l'ho visto ricordato in questa chiave stamane su un giornale, non sbagliata, perché è stato un po' considerato l'antilobello, nel senso che mentre Lobello fuori classe del fischietto, ma insomma, come dire, amava l'arbitraggio personalizzato, l'arbitraggio da protagonista, Campanati invece praticava sul campo e poi cercò di instillare nei suoi allievi l'arbitraggio soft, quello che io condivido, secondo cui il miglior arbitro è quello che riesce a non farsi notare. Ci sono già degli ascoltatori in attesa, per esempio Antonio, che ha chiamato da Foggia. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Volevo dire una mia progettazione. Come ha visto la sostituzione di Vucinic con Del Piero? Ma io penso comunque che Del Piero, secondo me, penso che dovrebbe stare in panchina. Ma io, senta Antonio, mi è sembrata così marginale questo episodio, cioè rispetto a tutto quello che è accaduto a San Siro l'altra sera, Vucinic era esausto. Non dimentichiamo che le squadre nella scorsa settimana hanno giocato 3 partite. Del Piero è entrato certamente non al meglio, perché sennò non avrebbe sbagliato quel gol in solitudine assoluta del 3-1, però insomma, sono... Anche queste sono cose che possono succedere. Credo che se la partita fosse andata avanti il punteggio si è definito, diciamo, intorno alla mezz'ora del primo tempo, dopodiché la Juventus ha controllato la partita con grande disinvoltura, è certamente andata più vicino a arrotondare il punteggio che non a subire il pari, e quindi credo che questo cambio sia stato ininfluente, perché se andavano avanti altre 2 ore a giocare la partita finiva così, o al massimo si arrotondava per la Juve, ma non credo che l'Inter l'avrebbe rimontata mai. Marchisi non assomiglia a Lampard, domanda un ascoltatore. Questa, secondo me, lei stamattina l'ha letta da Gianni Mura, perché mi è sembrato di leggerla tra le righe. Non c'è niente di male, per carità, perché ad abbeverarsi a certe fonti, qualcosa potrebbe avere, qualcosa in effetti di Lampard, anche se io Marchisi lo trovo pure, la carriera di Lampard ci leviamo il cappello, ovviamente è da augurare a Marchisi, io Marchisi lo trovo più elegante di quanto non sia un po' spampanato ogni tanto Lampard in certi movimenti, in un certo modo di correre. Marchisi lo trovo più bello, anche per come, appunto, per come si muove, per come corre sul campo. Visto che ho citato Gianni Mura, mi piacerebbe leggere il suo ultimo capoverso di stamane. A margine segnalo che a San Siro, mentre tifosi juventini intonavano cori pesanti contro Giacinto Facchetti, tifosi interisti esponevano il seguente striscione: acciaio fragile, nostalgia dell'Aisel, fino a che andrà in scena questo ignobile tamburello coi morti, e magari nessuno ne parla e che sarà mai, è inutile consultare le tabelle UEFA. Così, fieri della vergogna o assuefatti, saremo sempre più lontani dall'Europa e da stadi che possono dirsi civili. Devo dire che un ascoltatore che si firma con nome e cognome Moreno Giallella ha trovato un'ottima chiave di lettura per questo. Ha detto, a proposito, un messaggio qui sotto gli occhi, a proposito dello striscione apparso sabato a San Siro sull'acciaio e sull'Aisel, mi chiedo quando inventeranno i tornelli da applicare al cervello. Caro Moreno, purtroppo è difficile, anche perché temo che la ricerca del cervello in questi, per l'appunto, decerebrati non sarebbe così agevole. Gianni ha chiamato da Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Condivido ampiamente quello che ha detto Gianni Mura e vorrei approfondire un po' la questione del Piero, perché io credo che Del Piero, Magnelli ha lanciato anche lui un messaggio ad Antonio Conte, e Del Piero per me è troppo pesante anche in panchina. Non è l'alta fine degli ultimi 10 minuti, in quanto lui non è centravanti di ruolo, lo è diventato per convenienza, e poi non condivido, se non c'è stato un infortunio in corso, neanche la successione madre, perché un attaccante, quanto va in gol le domeniche precedenti, non va mai tolto se prima non ha fatto un gol, perché se potrebbe togliere quella continuità che un attaccante è importante. Non avremmo avuto i 6 gol da Anastasia e di Rossi in quel caso. La ringrazio. Ma Gianni, io ho visto nelle partite precedenti, quelle non finite benissimo, in quella serie di pareggi in cui la Juventus ha, al momento, intendiamoci, ha perso l'occasione di, non di essere in testa, perché poi ci è andata lo stesso e come, ma insomma ha perso l'occasione secondo me di essere in testa adesso con un vantaggio già di quelli che mettono problemi agli avversari. Io lì ho visto qualche, per carità, qualche diverso punto di vista nella gestione dei cambi, ma ripeto, nel caso di San Siro mi sembra veramente lana caprina, perché era una partita talmente sotto controllo che non mi è sembrato, non mi sembra una di quelle volte in cui stare troppo a sottilizzare. Max da Treviso mi corregge: Mura paragonava Marchisio a Gerrard, e in effetti adesso sì, ho confuso questi due interni, lo paragonava a Gerrard per la verità, sì. E allora no, io sono forse più da Lampard, perché se proprio vogliamo, perché Lampard è più incursore, Gerrard è più regista, sia pure regista incursore, e Marchisio mi sembra più incursore che regista, anche per come sta giocando quest'anno. Di sicuro quest'anno è finalmente impiegato bene, perché quando vedevo giocare un giocatore con le qualità di Marchisio sulle corsie esterne, sinceramente non condividevo. Ricordi, oltre a Cascioli, anche un altro grande, Giovanni Arpino. Il suo Azzurro Tenebre, il più bel romanzo italiano sul calcio, scrive Bebe da Parma. Beh sì, adesso io, oggi è il giorno della morte di Lino Cascioli, ve l'ho appena annunciata, che è stata una grande firma del giornalismo sportivo italiano, però non farei confusione con Giovanni Arpino, che è stata una grande firma della letteratura italiana. Poi il fatto che per alcuni anni si sia prestato, sia stato prestato alla stampa e al giornalismo sportivo, ha onorato il giornalismo sportivo, però Giovanni Arpino veniva da un'altra categoria, e alcune sue opere letterarie e non sportive resteranno nella storia della nostra, restano e resteranno nella storia della nostra letteratura. Rinaldo ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno Granzini. Vedendo la Roma sconclusionata e cervellotica di questo inizio di stagione, mi viene da fare una considerazione, che se gli americani a inizio stagione stavano cercando un allenatore con un gioco spumeggiante ed efficace, che valorizzasse i giovani campioni, che richiamasse pubblico allo stadio con un occhio anche diciamo all'etica sportiva e ai comportamenti corretti, non sarebbe stato meglio se avessero contattato un certo Zeman? Mi piacerebbe ascoltare la sua opinione, grazie. Non lo so, sinceramente io credo che c'è differenza tra andare a fare un magnifico lavoro come sta facendo Zeman a Pescara con dei, adesso io dico ragazzotti non in senso spregiativo, ma nel senso dei ragazzotti proprio, e quindi materiale diciamo più plasmabile rispetto alle concezioni di gioco di Zeman, e c'è differenza invece nel salire di categoria e arrivare alla Roma. Io penso questo, che Inter e Roma, cioè le due grandi sconfitte di sabato, abbiano commesso l'errore opposto, nel senso che l'Inter palesemente non ha rinnovato. L'Inter è in questo anno e mezzo, quando ha cercato di rinnovare, ha sbagliato le mosse, perché non c'è un solo giocatore di quelli, e non è che ne hanno presi pochi, di quelli presi dall'anno scorso, che sia oggi un buon titolare dell'Inter, che sia oggi un buon giocatore da Inter, perlomeno da Inter, da trascinare, insomma, da sostituire alcuni dei vecchi. La Roma ha fatto il contrario. La Roma secondo me ha rinnovato troppo, ha avuto un eccesso di rinnovamento, ha due giocatori che l'Inter non ha certamente scovato, che sono Pjanic e Lamela secondo me, ma soprattutto Pjanic mi sembra un signor grande giocatore in rapporto all'età, poi adesso ovviamente si vedrà. E però in compenso ci ha rinnovato troppo intorno, compreso il sistema di gioco, quindi tutto questo alla fine non può che produrre precarietà, che è il limite di oggi della Roma, che ha dei momenti entusiasmanti, che ha delle idee di calcio eccellenti, che però si sta un po' tanto dimenticando, ma credo per limiti strutturali dei suoi protagonisti della fase difensiva. Non solo quando si fa beccare scoperta, come era successo a Genova per esempio, ma anche a difesa schierata, e questo come col Milan, e questo mi sembra leggermente più inquietante. Ripartiamo con qualche altro numero che più passano le giornate più diventano significativi, sempre i numeri di Franco Piantanide. Beh, intanto con la curiosità dei primi 4 gol segnati sabato pomeriggio all'Olimpico, con dei colpi di testa, 4 gol su 5 segnati con dei bei colpi di testa. Tra l'altro, Nesta, decimo marcatore del Milan in stagione, nessuna squadra ha mandato in porta così tanti uomini, 4 vittorie di fila per il Milan, ma anche 14 gol già subiti, pensando che lo scorso anno ne prese 24 nel campionato intero. Solo Parma, Inter, Lecce e Novara hanno subito più gol di quanti ne ha prese il Milan, che peraltro ha il miglior attacco con 19. La doppietta di Mattia Destro, che è una giovane punta, poi ieri forse qualcuno l'avrà visto in TV saltare al collo al suo allenatore del Siena, Sannino, rischiando di frantumargli la schiena. Mattia Destro è un giovane di scuola Inter. Io credo che, vedendo qualche pensionato in attacco e vedendo all'Inter e vedendo Destro a Siena, forse una riflessione si potrebbe fare. La Fiorentina non vinceva il 21 settembre e ha vinto tra la contestazione dei tifosi, però è anche vero che la Fiorentina ha 3 punti in più rispetto alla stagione scorsa. Secondo lei cosa sta succedendo al Chievo? Domanda Diego da Verona. Sta succedendo che ha perso 3 partite a fila e che questo potrebbe essere un anno un po' più difficile di altri, nonostante la buona partenza. Andiamo a Udine, sentiamo che cosa pensa Isla, altro talento non da poco della Covata friulana, su Di Natale e sul futuro. Lo di Totò è sempre così, noi ridiamo in allenamento perché lui non corre mai, però fa gol camminando, è un fenomeno, quando cammini anche fa gol. Udinese è una squadra giovane, il Miss lavora sempre sopra questo, si perdiamo dobbiamo giocare sempre uguale, e questo è stato un merito. Mi piacerebbe andare via all'Inter o al Milan, per me è l'uomo perfetto, il mio idolo è Maicon. Si è parlato tanto di che io potevo andare all'Inter perché Maicon ha finito, penso che questo è una bugia. Maicon è il più forte dell'Inter, e per me le faccio un complimento perché sempre lo guardo a lui. Dicevo dell'esonero di Giampaolo, cioè la quinta panchina, quella del Cesena, in questo caso saltata già in questo campionato. Sentiamo la comunicazione dell'esonero da parte del presidente del Cesena, Campedelli. In questo momento ci sia bisogno di creare quel presupposto che si spera di non utilizzare mai, però in questo momento sento il dovere di mettere mano a questa cosa, quindi cambieremo la guida tecnica. La cambieremo, ve la comunicheremo più velocemente possibile. Non avevamo chiaramente preso in considerazione diversi nomi perché credevamo e speravamo in una risposta diversa dalla squadra in queste 3 partite. Questo non è accaduto, quindi ci metteremo subito al lavoro per sostituire l'allenatore. Nicola Lavarazza è in prestito dal Genoa, non dall'Inter. Io non so come siano gli incroci di proprietà su Destro, anche perché quando c'è di mezzo il Genoa gli incroci in genere sono abbastanza complessi. Di sicuro Destro è nato nelle giovanili dell'Inter ed era un ragazzo che ha 17-18 anni e già molto ma molto prometteva, quindi questa era la riflessione. Del Piero Pesante, domanda Marco da Varese, la Juve in poco più di 10 minuti ha preso 4-5 falli, il che vuol dire che la palla l'ha tenuta e che in quel periodo la squadra ha respirata, che è verissimo. Ivan dalla provincia di Messina, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno signor Garanzini. Senta, volevo chiederle un'opinione. Quindi parlando della Juventus, vedendo un po' questa rivoluzione diciamo mentale che ha avuto, nel senso che adesso sembra una squadra molto diversa dall'anno scorso, però da un punto di vista appunto mentale, perché dico in campo per 7-8 undicesimi sono quelli dell'anno scorso, se poi leviamo Pirlo, diciamo, e mettiamo l'Aquilani che stiamo vedendo per ora, mi viene da pensare se il signor Berleri forse l'anno scorso abbia un po' sbagliato ad avere dei rapporti appunto con determinati giocatori, con la società. Perché ripeto, a me sembra la stessa Juve dell'anno scorso. Beh, diamo Pirlo a Del Neri anziché Aquilani, e poi magari ne riparliamo. Sì, però dico, ecco, anche lo stesso Vucinic, a mio avviso, è stato acquistato come un top player, parola antimaticissima, però dico, allo stato, a parte due gol, non è che abbia fatto così tanto. Però voglio chiedere una sua opinione. Grazie e arrivederci. La mia opinione è che i giocatori... I giocatori della classe di Pirlo e della intelligenza tattica e della capacità realizzativa di Vucinic, sia pure con i limiti dinamici del primo e l'indolenza del secondo, perché questo è il problema di Vucinic, secondo me, dopo tanti anni che lo si vede, sono due giocatori che ti cambiano il modo di stare in campo, ti cambiano la personalità di una squadra. Dopodiché questo non sempre funziona, ma insomma in linea di massima è un parametro da tenere presente. Il Genoa ha riscattato Destro, questa è la verità di mercato. Il Genoa lo ha riscattato dall'Inter e lo ha prestato, quindi è del Genoa adesso a tutti gli effetti, e lo ha prestato al Siena. Ha maggior merito delle scelte di interiste, a parer mio, perché questo mi sembra un centravanti di quelli che, cresciuti nel proprio vivaio, prima di lasciarli andare del tutto, di quelli da pensarci magari un paio di volte, non una soltanto. Andrea da Verona, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Volevo approfittare della caratura nazionale della sua trasmissione per rendere noto una cosa che solitamente non si vede, e cioè le amicizie tra le tifoserie. Ieri io ero a Siena, ahimè, perché con quelle quattro scopole che abbiamo preso, insomma, non sono uscito poi molto contento, se non con un buon Chianti e via. Però prima della partita i tifosi del Chievo e del Siena hanno mangiato insieme fuori dallo stadio, noi abbiamo portato i nostri bei pandori, tutti tranquilli e beati, si è entrati allo stadio. Alla fine della partita il nostro bel Chievo, anzi poco bello ma veramente piuttosto disastrato in questo momento, è venuto sotto la curva, si è preso applausi, rimbrotti, è venuto, quasi tutti i giocatori sono venuti sotto, hanno dato le maglie ai tifosi, per cui insomma la partita è finita, pazienza, si rimedierà in qualche modo e la vita va avanti, diciamo, dopo la partita. Proprio mi è venuto in mente di chiamarla dopo aver sentito, perché non ho visto la partita di Inter e Juve. Sì, dopo aver sentito quegli striscioni, se vuole, no, intervento quanto mai opportuno, se vuole gliene segnare un'altra. Le segnalo le botte che i giocatori della Sampdoria hanno preso rientrando da Nocera inferiore. Non soltanto la contestazione degli ultra sampdoriani, quando a sera tarda o a notte alta, adesso i particolari esatti non li so, da un punto di vista orario, quando comunque il volo è atterrato in aeroporto a Genova. La contestazione era attesa, la Sampdoria ha preso 4 gol da Nocerina, segnandone 2 nel finale a risultato ampiamente acquisito, quindi che ci fosse molta amarezza da parte della tifoseria, anche quella più calda, era normale. Oltretutto, dopo, nel corso di un campionato di Serie B, la Sampdoria era partita per provare a dominare, che invece la sta vedendo assai poco protagonista per il momento. Ma da lì a dei pugni in faccia, per esempio a Rispoli, che ha un dente rotto, a contusioni per Lasco, lasciamo stare il lancio di uova, arance e pomodori, che questo fa parte del folklore di queste simpatiche manifestazioni, beh, insomma, mi sembra che da lì alla ne corra. Andrea Verona, buongiorno. Ho appena finito di parlare. Andrea, le chiedo scusa. Chiedo scusa, ho avuto una distrazione su un display che è molto affollato oggi. Tanto lei comincia a operare esattamente come Antonio da Salerno. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo sapere da lei, essendo che io la stimo tantissimo, volevo sapere qual è il numero, diciamo, idoneo, adatto, diciamo, in 9 partite per i calci di due che si possono assegnare. Volevo sapere, perché nella settimana scorsa, gli avrei chiesto anche settimana scorsa, non avevo la possibilità. Sentivo dire in 9 partite 5 rigori scandalosi da parte di una società che si è, diciamo, mette il merito di essere stata quella, diciamo, la vittima di Calciopoli. Poi in 9 partite 5 rigori, ma il merito quanti rigori può prescrivere per, come giustizia? Come non so, faccia lei, Antonio. Si è fatto la domanda, si dia una risposta, che credo sia la soluzione ideale in casi come questo. Tornerei un attimo alle voci dei protagonisti della domenica, perché per esempio mi pare che Pioli, insomma, la cura Pioli al Bologna stia decisamente facendo bene. Allora, sentiamolo dopo questa vittoria in rimonta su una delle squadre certamente più in forma di stagione, che è l'Atalanta. Ma sicuramente soddisfazione, perché il fatto che comunque la squadra non vincesse in casa da 8 mesi cominciava a essere pesante a gestire dal punto di vista mentale, sia per i giocatori sia per tutto l'ambiente. Abbiamo sofferto tantissimo contro un avversario sicuramente che molto valido, molto organizzato, che in questo momento è una squadra molto in condizione. Non ci illudiamo, però la base di partenza è ottima, nel senso c'è grande spirito, grande volontà, grande voglia di lottare su ogni pallone, però le situazioni sulle quali vogliamo e dobbiamo crescere sono ancora tante. Domenica rimango a casa a vedere l'Inter o meglio le quaglie al forno di mia suocera? Si domanda Mauro, ma insomma, anche in questo caso, no, alla Marzullo, come con l'ascoltatore di prima, si è fatto la domanda, si dia lei stessa una risposta. Cristiano scrive: l'Inter in futuro l'aveva in casa con Balotelli, Santon a destro, ma non ha saputo fare come il Barcellona con i suoi giovani. Beh, insomma, io credo che siano 3 casi diversi. Destro era una scommessina da fare, da perseguire. Su Santon ha provato a scommettere e mi sembra che non fosse il caso. Le vicissitudini che hanno portato Balotelli lontano dall'Inter, beh, insomma, in quel momento tutto sommato ci stavano, perché era questo che voleva andare via. Vediamo domani, a proposito di Ultra, cosa succede per Verona-Brescia, scrive Cristian dalla provincia di Verona. Sì, due belle tifoserie, certamente con tutti i loro quarti di nobiltà. Però Tommaso da Bergamo scrive: gli Ultra, va anche detto che tanti di loro erano a spalar fango alle Cinque Terre. L'ho visto scritto da qualche parte, mi auguro che sia vero, e in ogni caso sarebbe interessante allora uno studio una volta l'altra su questo sdoppiamento di personalità, no? Per cui queste persone diventano normali o addirittura per bene se appena le si tiene lontane dal calcio, diventano anormali, ma anormali vere in senso grave e pericoloso se appena hanno a che fare col calcio. Dunque il calcio deve provare una volta per sempre a difendersi tenendo lontana questa che è gente al di fuori dal calcio, diventa gentaglia quando invece varca i confini del pallone. Carino questo messaggio firmato Luca: lei mi fa impazzire, mi scrive, lei mi fa impazzire perché cerca sempre di stare sopra le parti, poi appena l'Inter o il suo presidente fanno degli errori gli dà dentro come un fabbro. Anche lei è un po' tifoso. Certo che sono un po' tifoso, l'ho sempre detto, sono un tifoso al contrario, al 33% di Inter, Milan e Juventus. Toccherebbe all'Alberto da Venezia, ma prima gli chiederei un attimo di pazienza per rispettare la scaletta tradizionale e sentire quindi che cosa ha trovato Nicola Filippone per quest'ultimo giorno di ottobre. Sembra ieri. 31 ottobre 1970. Parte bene l'Italia di Valcareggi, impegnata nel girone di qualificazione agli europei del 72. Gli azzurri espugnano il Prater di Vienna battendo 2-1 l'Austria, con reti di De Sisti e Mazzola. Ma la gioia per il successo passa in secondo piano, a causa del brutto infortunio subito da Gigi Riva, per effetto di un duro intervento del difensore austriaco Hoff. Non porta un ancora, era un'entrata un po' così, un po' dura, come tante volte è capitato nei momenti di gioco, e invece quella sera quella forbice che ha fatto da dietro con le gambe mi ha praticamente bloccato, sfasciato completamente la caviglia. L'attaccante del Cagliari riporta la frattura del perone e il distacco dei legamenti della caviglia destra. Per Riva è il secondo grave infortunio in maglia azzurra, dopo quello nel 1967 contro il Portogallo. L'incidente del Prater condizionerà il prosieguo di carriera del forte e sfortunato attaccante. Beh, forte e sfortunato è vero. Caro Nicola Filippone, è stato un po' più che forte. Gigi Riva è stato un simbolo, del calcio italiano, ma non solo perché ha dato due gambe alla patria, no? Se vogliamo metterla davvero sul piano della retorica, ma perché di attaccanti del valore di Gigi Riva, tuttora con due fratture in nazionale, tuttora capocannoniere di tutti i tempi in maglia azzurra, in epoca in cui non si giocava tanto con le Estonie, no, e con le Faroe, ma si giocava contro altre nazionali, beh, insomma, dà un'idea della statura di grande, ma vero grande campione del calcio italiano. Alberto Venezia, buongiorno. Eccomi Garanzini, buongiorno. Dica. Guardi, io parlo da tifoso dell'Inter, storico direi, ma anche se un po' deluso dalle ultime vicende. Ma io devo dire un paio di cose molto, molto semplici. Allora, noi abbiamo il nostro presidente, presidentissimo, che si dibatte in problemi di bilancio, fair play finanziario e tutti questi ammenicoli economici imposti da Platini e adesso, quant'altri. Ammenicoli, lei ha idea di cosa è costata l'Inter a Moratti in questo? No, ma io non sto dicendo che gli è costata poco. Ammenicoli. No, ammenicoli economici, quelli inventati da Platini. Se per caso Massimo Moratti, che cosa che escludo, fosse in questo momento all'ascolto del programma e soprattutto alla guida, io mi auguro che non sia alla guida, perché sennò a quest'ora è finito fuori e si è sfasciato. Comunque, guardi, prego. Le spiego perché li considero ammenicoli. Ammenicoli, certo. Le considero ammenicoli per la semplice ragione che valgono per alcuni e non valgono per altri. Perché a venirmi a spiegare che siccome il Barcellona ha un debito storico di 450 milioni di euro e siccome è storico non vale nell'annata perché loro vanno a pareggio perché hanno un grande introito dal punto di vista del fatturato, allora io che sono un tifoso interista do molto modestamente dei consigli al nostro presidente. Presidente, faccia lo stadio nuovo, si liberi di San Siro, faccia uno stadio privato, investa i suoi soldi in quello. Noi siamo disponibili per 5, 6, 7 anni, siamo stati anche per 20 anni, 19, 15, se non lo ricordo più, senza vincere scudetti, se ci danno delle prospettive, ma non ci si venga a dire che dobbiamo rispettare il fair play economico alla Zamparini, cioè vendo per 30 milioni, compro per 30 milioni, perché allora delle due l'una, o vale per tutti, e allora anche Barcellona, Real Madrid, che addirittura adesso è diventata, se non mi sbaglio, un di interesse nazionale, una squadra di interesse nazionale, gli hanno fatto anche questo regalo qui, vale sì, per è tutti chiaro, questa chiaro. Cosa, Alberto, oppure non vale per nessuno. Il concetto è abbastanza chiaro. Il fair play finanziario io comincio a dubitare che vedrà mai davvero la luce e soprattutto che sarà uno strumento perfetto. È probabilmente nel caso dell'Inter uno strumento a misura anche della famiglia Moratti, che forse dopo alcune centinaia, ma molte, molte centinaia di milioni di euro investiti in questi 16 anni, se avesse avuto dall'alto, dai regolamenti, il divieto a spenderne altri, probabilmente potrebbe anche farsene una ragione. Daniele Bologna, buongiorno. Buongiorno. Sì, dica. Volevo dire, cosa ne pensa del Bologna che ha cambiato allenatore e con Pioli sembra che vada bene? Volevo rilanciarmi all'ascoltatore prima, che volevo dire che l'Inter, poi dopo, quando due anni fa Mourinho se n'è andato via, forse è andato via perché aveva capito che i giocatori erano molto, molto stanchi, lì è stato l'errore dell'Inter che doveva vendere tutti e rifondare la squadra quando i prezzi dei suoi giocatori erano talmente molto alti. Perché è facile vincere una Coppa dei Campioni e poi vendere tutti, no? L'Inter poteva fare di meglio, poteva un paio di pedine, no? Maicon voleva andare via ad ogni costo, Milito forse anche, o comunque non gli sarebbe dispiaciuto andare via, bussava a Quattrini, mi pare, già sul Prato del Bernabeu, almeno così è stato detto ed è stato scritto, quindi quello era il momento da cogliere, però mandarli via tutti, insomma, da lì a mandarli via tutti mi sembra un po' eccessivo. Sarebbe bastato non rinnegare, secondo me, le scelte di rinnovamento che sono state fatte subito dopo, magari ho torto collo, perché bastava tenere Benitez, perché Benitez l'altro anno quest'ora c'era 18 punti, sono esattamente il doppio di quelli che ha adesso l'Inter, per dirne una. Oppure si poteva pensare di trattenere Leonardo, se non fosse che Leonardo se n'è andato di, credo di aver capito, insomma, di sua spontanea volontà, non solo per l'offerta di Parigi, ma anche perché aveva grosso modo messo a fuoco il film, e quindi l'impressione è che dietro questa offerta parigina, che in effetti c'era e che è una magnifica avventura, visto che Leonardo è tra i protagonisti del rilancio del calcio a Parigi dopo tantissimi anni e del rilancio al vertice, beh, insomma, credo che qualcosina avesse capito. Sebastiano, chiamato da Catania, buongiorno. Sì, dottore Garanzini, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo sapere cosa ne pensava del Catania. Cosa ne penso del Catania? E della società in se stesso, tutto quello che hanno fatto. La società non la conosco, sinceramente. Conosco la squadra, per quel che vedo giocare, conosco questo bravo allenatore e lo conosce anche la tifoseria romanista, che comincia a domandarsi ma era proprio necessario, si chiede qualche romanista, arrivare, cioè puntare su un giovane a nome Luis Enrique anziché su un giovane della casa, no? come Vincenzino Montella. Il problema, la risposta credo che sia incorporata, nel senso che Montella l'anno scorso la chance l'ha avuta, la possibilità l'ha avuta, non se l'è giocata così male, ma insomma, se si voleva fare una rivoluzione si doveva andare un pochino più lontano. Del Catania cosa vuole che pensi? Al sesto risultato utile consecutivo, in cui ha fatto 10 punti, di 9 punti li ha fatti con Juventus, Inter, Fiorentina e Napoli, no? E quindi mi sembra già che se la possa giocare con tutti. In classifica è al fianco del Napoli. Il Milan, che mi pare lo riceve domenica o sabato, non può pensare di fare una passeggiata. Comunque, poi certo, che resti favorito è un altro discorso, ma se la deve giocare seriamente. Nelle ultime 5 partite è sempre andato sotto e poi ha recuperato, portando a casa 2 vittorie e 3 pareggi. Beh, insomma, mi sembra che tutto questo, insieme ad un bel calcio e a qualche individualità di spicco, perché quello che una volta era Maxi Lopez adesso mi pare sia diventato sto accidente di Bergessio, beh, insomma, credo che il bilancio attuale negativo non possa essere davvero, anzi è una partenza tra le migliori, credo, della storia del Catania. Dunque, guardo l'orologio e credo che siamo arrivati in conclusione anche oggi. Ci sentiamo regolarmente domani, nonostante la festività, con un occhio più di riguardo al calcio internazionale, che ha tanti spunti che arrivano da questo fine settimana. Per il momento grazie a Franco Piantanida in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Buon pomeriggio a tutti, vi lascio al giornale radio.